Dove siete? Chissà chi sono? Ma dite qualcosa. Dove siamo su questa terra? È la diretta di 100 Cell Avengers. The day after tomorrow. Quelli che non vedi perché non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente. Senza Cell Avengers la musica si riprende. E siamo di nuovo qui, incredibile, the day after the saggio, anzi, 3 days after the saggio. Di saggio. Ma com'è che funzionava sta roba quando era la musica, quando era le cose? Allora facciamo un piccolo ripassino per la prossima volta, prossima stagione, l'intro comincia col riverbero. Io dico, c'era, chi è? Dove sono, c'era. Amici? Sì, ma voi dovete rispondere, cioè all'inizio sono una particella di acqualete, poi vi aggiungete e facciamo un crescendo. Ma io questa è l'organizzazione, è venuto bene comunque, è venuto bene. Il prossimo sarà sempre meglio, sempre meglio. Sì. E quindi dicevamo bentornati a tutta la ciurma, almeno quello che ne rimane in questo after saggio che vede già degli assenti, ma poi ne parleremo. Saluto Silly. Eccoli, ne resterà soltanto uno. Saluto la professoressa Viola. Hola amici. Salve. E saluto Virgi. Ciao a tutti. E salutiamo a casa Betta e l'avvocata Napolitana. Perché abbassa il tono della voce? Commendatore. Non avvocata. Si dice avvocata, comunque fa veramente cacare, scusate. C'è una cosa che non dovevo dire, l'ho detta. Comunque salutiamo la Gabri che è, sì, che è giù, è inviata per 100 Cell Avengers a Cosenza, al Castello Svevo. Probabilmente più tardi la sentiremo, ma non vi spoilerò niente altro. Se non il fatto che questa puntata è rigonfia di contenuti, tutti ovviamente derivanti all'insegna dall'evento. Del saggio. Sì. Nuovi, nuovi, freschi. E quindi freschi. Anche se la sigla si riferiva ai vecchi saggi, a ricordati com'eri quando eri prima, cioè, la usiamo uguale, anche se i ricordi sono molto fresh. Ricordati di te com'eri prima. Un'estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa, i ricordi. Tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa. E saggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Un'estate fa. Ricordati di me. E questa era la bellissima sigla, ma nel frattempo si collegava come una faina subito su Gizzi, sulla nostra stanza Music Forte Factory, l'avvocato Napolitano Gabriella con tutta la famiglia, solo per metterci ancora più sotto botta e darci il coraggio che ci serve per portare avanti questa puntata. Grazie. Non so, spero che si senta anche qualcosa che proveniente da loro, ma il volume è aperto, non è colpa cioè, mia. Qualora la Gabri volesse anche dire qualcosa, noi forse la sentiremmo, ma non la sentiamo. No, non la sentiamo. Ma non saremmo noi se così non fosse. Intanto comunque posso descrivervi la bella sole. Cosenza, sì. Un caldo che di solito fa molto piacere al papone di Gabri, che infatti sta vestito in bianco come di consueto, i gradi saranno 37-38, il panorama è molto bello. E niente, più tardi forse riusciremo a ripristinare anche l'audio, perché la mia descrizione di Cosenza può lasciare anche un po' diciamo a desiderare, cioè ma non rendere bellissimo. Troppo l'idea, però è bello, ragazzi, è bello. C'è una vallata, che cos'è? È un castello, già siete al castello? Erano giustamente al centro storico di Cosenza, sì. Questa è Radio TV praticamente. La cronaca del Antenna 3, la Natura Blu, no, diciamo, voi non potete vedere niente, ma quanto è bello. Mamma mia. Non posso che dire wow, come direbbe Licia Colò, esattamente. La nostra Gabri si è trasformata in Licia Colò senza neanche pensarci un momento. Comunque, andando avanti, noi avevamo messo la sigla della Marcord perché bisogna dire che fra le varie cose che abbiamo messo a punto in questo evento c'è stata anche la registrazione. Stavolta non ci sono scuse, è venuta. C'è tutto, sei sicuro? L'abbiamo fatta... in multitraccia, quindi quella cosa severa, abbiamo passato la nottata quindi a analizzare come ha suonato ogni singolo. Abbiamo materiale per ricattare tutti, ma poi abbiamo ovviamente messo insieme il meglio in una nottata, cioè, con pazzesco. Del sudore. E quindi cominciamo a presentare quello che fu il saggio di Musica Forte, il primo luglio, scusate, sì. Del 2021, con cominciamo dalla fine, dalla parte in cui si sono esibite le band, la famosa Mesopotamia, e ascoltiamo il brano con cui, uno dei brani con cui si sono presentati i Sumeri. Vogliamo dire chi erano i Sumeri? Allora, i Sumeri erano Emanuela. Molto bene. Simone. Incredibile. Fabrizio. Giuseppe. Giuseppe and Suano, come maestro e accompagnatore. E loro, il loro motivatore, fomentatore. Bacchettatore. Ma per questo pezzo erano loro o c'era pure la guest star? In questo pezzo c'ero anche io, facevo un po' Gianluca Vialli, per chi e si ricorda Gianluca Vialli, che c'è il maestro, sì, diciamo un po' del gruppo, ma l'altra guest star, qual è il pezzo? Che ascolteremo. Ah no, questo non è quello con la guest. Allora non la nominiamo, Purtroppo non possiamo. Stanno cercando di fare spoiler ovunque, allora. Ragazzi, non vi preoccupate, chiunque sia all'ascolto, ci penso io a mantenere il livello di spoiler allora, basso. Allora, formazione originale. Questa come formazione detto, originale, sì, il sì, pezzo sì, è Build Me Up dei The Foundation. Questi sono i Sumeri. Rangers. E Davidino, lo salutiamo sempre che ci segue. Ciao Davide. E ritorniamo in studio in diretta su 100 Celle Avengers Radio Forte, sì, per questa rassegna di saggio di fine anno. E inizierei, bellissimo, dopo aver sentito il primo brano, a fare i complimenti ai grupponi. Sì. Che mamma mia. Allora, cominciamo con le cose false, perché sappiamo che Virginia fa parte di un altro popolo. Allora, i popoli sono in guerra, non so, cioè, quindi non famo finta. Allora, ci avete separato voi. Ci avete separato voi. Non è colpa anche nostra. Sul palco, le persone che con le guest star di un nessuno gruppo capisce di un la mia ironia autoironica. Mamma mia, davvero. Cioè, veramente ci avete però... perché di solito per me è vero, però ci avete separato voi, io volevo bene a quei ragazzi. È vero, bisogna dire che... crescere. Bisogna dire che questo anno, abbiamo detto più volte, ha portato diverse differenze nel nostro modo di provare, nel nostro modo anche di esibirci. E su quest'ultima cosa volevo spendere il mio solito pippone in favore dei tecnici. Prego. Ma vai, soltanto vai. Per dire che noi abbiamo avuto, cioè, una scala delle priorità. Il problema Covid, la distanziamoci, allora che facciamo? Palco grande, molto bene. Il palco grande, dove normalmente facciamo, appunto, che ne so, la banda Bardot, il primo maggio, cioè, si gestisce normalmente in... non te dico in 15, ma insomma in una quantità di personaggi che stanno appresso ognuno a una cosa. Noi ovviamente a luglio ci troviamo anche un po' sotto organico, quindi insomma il problema è stato fare un po' la trottolina amorosa fra perché le distanze, quello che volevo farvi capire senza andare nel tecnichese, ma solo il fatto che bisogna percorrere una discreta distanza, il contapassi Huawei è impazzito in quel giorno per rendere utile e rendere possibile questa cosa sul palco grande, essendo in due, insomma in due tre. Tutto questo lo volevo dire grazie a Giorgino, ma grazie, non per dire sempre di Giorgino, personaggio grazie, simbolo di Radio Forte, ma per dire che questo è stato possibile grazie a un collegamento protocollo Dante, che constava in pratica di due macchinoni, di quelli insomma che gestiscono le reti, che li sa configurare solo chi ha veramente studiato, perché erano due mostri di vecchia tecnologia che insomma comunque hanno fatto da cervello a tutta questa cosa. Siamo riusciti a fare la cosa, a fare il palco, a registrare tutto insieme, era tutto grazie a Giorgino. Niente, questo pippone era anche un pochino fine a se stesso, ma anche faceva da ponte al prossimo gruppo di cui andiamo a parlare. E chi sono? Erano i più agguerriti, i più assidui, anche detti. Detti assidui, sì. Gli assiri, ecco, si è rotto tutto. Non è vero. Era sugli assidui è partita una cosa più lounge. Tutto a posto. Io già stavo lì. È per il loro. Eravamo sul pezzo. Quindi chi sono gli assidui? Allora, il mitico Matteo Stick B. Raimondo. Matteo detto Stick, detto B. Detto anche Raimondo, detto anche Meloni. Ha tanti nomi. Detto tante cose. Quest'uomo. Non abbiamo un contributo o... Ah, sì, scusate, no. Infatti, ma eravamo in attesa. Per ricordarci. Scusate. Stai ascoltando Radio Forte e questo è il 100 Celle Avengers. Eccolo. Grazie Stick per avercelo ricordato. E questo era Stick. Poi c'era Giuseppe Corano, sì, alla chitarra. Molto bene. Sì, la prima chitarra. Poi alla batteria Francesco Casali. Il polistrumentista, volevi dire, sì. Poi al basso Matteo Beg, che non so come porta di cognome. Per me Zallo. Io ce l'ho Zallo. Sì. Su. No, perché Zallo. Io leggo... Comunque, vabbè, questa cosa dei cognomi... Mi ricordavo il WhatsApp, il nostro gruppo e come... Esatto. Ricordiamo che Matteo è esatto, l'autore della meravigliosa Locandina che avete potuto vedere sul sito web, nonché appesa qua e là al Forte. E io volevo fare una domanda al maestro su questa locandina, su come c'era rimasto del fatto che Iron Man nella locandina suoni la batteria. È stata una sua scelta. Sì, lui lo vede così. Abbiamo lasciato, diciamo, l'arte a esprimersi. Ricordate che Iron Man suonava anche le congas, quindi è stata... È vero. Ha fatto due tutto. Una cosa coerente. Lui, mentre ci esercitavamo noi quest'anno con i vari strumenti, voce, lui invece a casa si esercitava con la batteria. Che ne sapete voi? Come Iron Man. Era vero. Quindi volevo dire, mettiamo quindi questo pezzo che è un pezzo di Povia, mi pare. Un pezzo di Povia, dicevo. No, è di Povia. Quando gli Iron Man fanno oh! Ma qual è il pezzo? Qual è il pezzo? No, quello che io chiamavo sempre di Povia, no? Cagnasse tutto. Foia. Vabbè, sì. Fosse per me. Quindi ascoltiamo. Ma siamo bravissimi sui nomi, cognomi, titoli delle canzoni. Se Povia, diciamo che siamo ancora lucidi dopo. Che era un pezzo di Povia, facevamo meglio. Comunque andiamo con gli assiri. Forse a me cagnasse tutto senza pensare. Per me sciogliere sti corda facesse più per tutto quanto giuresse chiuso l'occhio per non perdere un momento e non vorrei tutto su sporca, ma per sentire che il mio cuore ancora sbatte. Carano dolce pioggia, coppe quartiere mio, ma quel che leva siete e tu non da dormire. Forse per me cagna il suo mondo, per te scelta che il legato chiama suona, te resta a mente tutte parole e chi malata senza avere tutto su bene cercasse scusa a tutto quanto, perché chi cresce chi lo perde con graffiezza, fammi sentire dalla che e forza forza per cagnare un momento buono. Cara una dolce pioggia, coppe quartiere mio, e adore terra infusa, e tu grazie. Sì. Oh, ma che state a fa? Sul pianoforte, sul mixer. Chiedo scusa. Ma che schifo! Ma che vi siete impazziti, raga, stavamo in onda. Cioè, avete appena fatto il primo soft porno radiofonico fra devices. Forse questa canzone li ha ispirati. Sì. Cioè, siamo stati i primi comunque, posso dire. Grazie, Centocelle Avengers, Radio Forte. È stato anche questo pioneristico, come fu il musical radiofonico d'altra parte. Comunque, Iron Man, questo non ti salverà dalle tue lezioni. Cioè le reazioni veramente di un bradipo, ma tu ti ricordi che facevamo le lezioni di piano? Cioè tu vuoi diventare bravo come questi che stiamo sentendo del saggio di musica forte? No? Dici di no? Riproduco. Allora. Oh, eccoci qua. Oggi facciamo una cosa veramente difficile. Non, cioè, nel senso che è difficile per te, ma sicuramente a me mi viene bene. Allora, innanzitutto non funziona. No, perché non l'avevo aperti. Mi scusi, è colpa mia. Giusto, è colpa mia. No, abbiamo un tecnico che comunque sta sul pezzissimo. Allora, sempre. Dicevamo. Allora, noi siamo in un contesto in cui forse il sottofondo, cioè, può essere anche momentaneamente tirato giù, e siamo nel mondo dell'armonia, che comunque se tiri giù questo, tiri giù pure quello, incredibile. Cioè, è proprio una vitaccia. Silvano, mi vuoi male? Se io muto qua, quello non lo devi abbassare, Silvano, capisci? Quello deve rimanere perché è il musicale, ok? Ok, allora dicevamo, so che sono cose nuove. Allora, di nuovo, sigla. Ma io le posso fare l'ultima domanda? Perché magari... no, ma il basso l'ho aperto? Il basso, no, il basso lo devo aprire io, di quello te la puoi prendere con me, ok. Te la grazie, puoi scusi. Con me. Adesso un attimo che... Mi cioè, tiro in un angolo. No, ma io pure, veramente, cioè, questi esperimenti che continuiamo a cercare di fare come il collegamento più lungo del mondo hanno sempre un esito, vabbè, diciamo, altalenante, posso dire. C'è il basso? C'è il basso? C'è il basso? C'è il basso? Io... Credo di avere un problema da diretta, ovvero il basso si è scaricato. Scaricato, addirittura, incredibile. Non ci credo, vabbè, io ti metto a palla uguale. Questo è un basso scarico, sentite? Ok, questo è un basso scarico. Posso mettere, esatto. Non fare, no, non lo fare, grazie. No, si sente lo stesso, lo so che tu pensi no. Comunque Iron Man, dicevamo, grazie. Oggi parleremo del metodo Kramer. Dammi un'altra cordata per conferma. È vero, è scureggione, ma è bello come piace a noi. Cioè, lo sentiremo. Lo so, hai un Rodi che ti cambia la pila adesso sul palco? Non c'è nemmeno la pila. E allora mettiamo riverbero drammatico. Abbiamo il basso scureggione. Ok. Allora, dicevamo, il metodo Kramer, ok? Il metodo Kramer nasce per la postura. Iron Man, tu hai spaccato tutti i piani, quindi sulla postura non è che... Cioè, però io in realtà lo utilizzo perché è un qualcosa che anche a me, soprattutto a me che sono una pippa, mi ha fatto esplorare un po' le scale. Non tutte le scale, non completamente le scale, perché il metodo Kramer fondamentalmente si muove fra il primo e il quinto grado, quindi do, re, mi, fa, sol... Ok? Quindi non tutta la scala, però ci fa riassaporare, come già avevamo detto altre volte, i sapori dell'armonia, che possono essere allegri, possono essere tristi e possono essere inquietanti. Quindi questo metodo in sostanza analizza e porta ad esercizio la scala maggiore, la scala della tristezza, la minore, e poi la diminuita. Nel farlo modula continuamente come ci piace a noi e sale, quindi poi si fa e così via. E sulla terza, la diminuita, io ti volevo far riflettere, caro Iron Man, che ti sei addormentato. E anche io un pochino mi sto addormentando. Vogliamo mettere un po' di sottofondo? No, non lo mettiamo, che poi mi confondo. Si crea fondamentalmente l'attesa per la modulazione superiore. Quindi noi siamo sul Do, poi siamo sul Do minore, e poi siamo sul Do diminuito, che passa a Do diesis, Do minore diminuito, e poi passa a Re. Cioè tutto questo, ma cosa è che lo crea? È il diminuito. Il diminuito noi lo possiamo interpretare, volendo, e poi chiudo, perché veramente è come un accordo in realtà di settima. Cioè queste sono la prima, terza e quinta, in realtà ci diventano la terza, quinta e settima di un accordo sottinteso, che è in questo caso quello di La maggiore. Che vuole risolvere, come tutti gli accordi di settima, è quello che crea il saporiello, che fa modulare. Mo, sicuro che tu hai capito già tutto, ci avvaliamo di Virginia. Ciao! Allora, caro Iron Man, andiamo prima col Do. Poi il Do minore. E poi... Lo senti? E quindi Virginia cosa sta facendo? Un La bemolle che sottintende, che poi andiamo a finire in Do diesis. E così via, caro Iron Man, fino al Do superiore, dove tu arriverai senza il mio aiuto, ma con l'aiuto del metodo Kramer, che comunque è Kramer contro Kramer, quindi non è così facile come già mi impiccio a fare, ma è... E quindi lo devi fare Kramer contro Kramer, come il famoso film degli anni Ottanta, e a quel punto suonerai più o meno così. Questo è un pezzo che ho fatto io, Iron Man. We'll be right back. E bentornati su Radio Forte, 100 Celle Avengers. Questo che avevamo sentito ero io al piano. Grazie, maestro. Maestro, posso dire che cosa tensiva che ha fatto? Sì, questo è un pezzo un po' introspettivo, volendo. Vabbè, erano i Wolfpack, che non li mettiamo mai, e soprattutto di cui abbiamo i diritti. Tanto non c'è la Gabri. La Gabri ci guarda. Quindi oggi mettiamo tutte le canzoni non protette da copyright. Tanto non ci oggi, può dire niente. Oggi sì, come si dice, quando il gatto non c'è. Dicevo, andiamo avanti con la carrellata di cui sopra, perché abbiamo parlato dei primi due popoli che si sono esibiti sul palco del Forte Prenestino. E cioè la Gabri fa segno, ai, niente, so cazzi. No, quindi, con la testa. Quindi purtroppo ci sente. Purtroppo ci stava sentendo. E dicevo, ci sono esibiti i Sumeri, i Assidui, gli Assiri. E adesso chi c'è, Viola? Adesso ci sono i Fenici, giusto? Mi sembra proprio che ci sono i Fenici, sì, sì. Per questo io mi rivolgevo a lei, professoressa. Ah, ok. Allora, i Fenici come sono composti, vuole sapere, giusto? Cosa hanno inventato? Posso interrompere questa cosa bellissima? Perché, perché in realtà noi prima abbiamo parlato di queste guest star e tutto, però Viola in realtà è stata anche guest star in un gruppo che è già passato, o sbaglio? Ma vede che questo è lo spoiler, sì, di cui parlavo io. Non avevamo detto niente perché appunto ho chiesto quale fosse il pezzo e non... Carmapolis. Non era quello, capito? Certo. Quindi non è neanche stata spoilerata questa cosa più. Sì, invece, come sono composti i Fenici? Prego, che poi allora, sono qui. I Fenici sono inizio alla cantante. Vabbè, le cantanti sono due, in realtà ci siamo alternate. Io, Elisabetta, io, sì. Viola e Elisabetta, che ci segue da casa. Diciamo che è il gruppo di redazione. Gruppo di redazione, sì, sì. Direi che è un po'. Sì. Poi c'è prima chitarra con gli Assoli, Francesco Old. Prima chitarra, signor Mayer. No, prima chitarra. Non si dice il nome vero, è il signor Mayer. Il signor Mayer, scusate. Il signor Mayer suona la chitarra, ok. Poi, al basso, due bassisti abbiamo avuto, sì, che sono alternati. La nostra Virgin, un'altra della relazione. Ciao, Virgin, eccola. E poi un ragazzo, Herman Metal. Il nostro Herman. Sì, Herman Metal. E poi chi mancava più? Ah, poi c'è il grande Peppino. Stai dimenticando appunto il più talentuoso polistrumentista che è la terra. Okay, diciamo, okay. Non vale il mio ordine, capito? Non è che per assolutamente non in ordine di importanza. No, per niente. Il grande Peppino che si è alternato tra tastiera e sassofono. E quando suona il sassofono Peppino, veramente tanta roba. Sì. E il batterista anche. È il batterista. Qualcuno si ricorda il batterista. No, il batterista è il grande. Ma la batteria non Trevis. È importante. È vero. Il grande Silly, il Silvano di MD, che è un altro della redazione. Ok. Si è rotto tutto. Quando si rompe tutto è sempre l'ansia. Sta mancando qualcuno? Tutto. No. Ho fatto un errore. Assolutamente no. Okay. Direi che hai fatto una disaminima. Come si diceva? Esamina. Comunque sei stata brava. Cioè, hai introdotto bene la band di cui sopra. E che cosa ci ascoltiamo di codesti Fenici? Carmapolis. Incredibile. Come on, police. Incredibile, incredibile, stacchetti live perché si è rotto tutto, si è rotto tutto, si è fomentato Iron Man per un momento. Chi voleva parlare, maestro? Comunque, no, quello che dai al live, tu sei chiusa, capito? Esatto, quello che volevo dire. Sono aperta. Sei aperta, anche Viola, vero? Sì. Che quello che dai al live lo togli poi al normale, ci siamo scordati di riaprire i microfoni, però questo stacchetto che abbiamo appena eseguito era incredibilmente live perché abbiamo lasciato gli strumenti collegati dal saggio, non è vero? Per quello la batteria del Lugo si è scaricata, giusto? Sì. Però insomma, se avessi qualcosa da stapparei lo stapperei, perché questa è stata la prima esperienza vera musicale del soppalco, cioè quantomeno un po' più... Ma questo è un gancio, maestro? Ci abbiamo provato l'altra volta, no, non è un gancio. Perfetto. No, sarebbe veramente una gamba tesa se io, contrariamente a quanto ci siamo detti nella scaletta, andassi di qualsiasi cosa. Magari rimetterei anche un sottofondo. Così. Meno male, questo non è live. Questo non è live. Questo è il nostro solito tappetone in tema Avengers, e con il quale ci portiamo all'ultimo dei popoli. Chi sono i babilonesi? I figli di Babylon. Posso presentare il gruppo? Ma certo, mi raccomando. Allora, avevamo una formazione di tutto rispetto con una delle tue chitarre and ukulele, la nostra Gabri. Incredibile. Avevamo all'acustica and elettrica la nostra Anita. Batteria di Silvano, basso Virginia, Peppino come solita guest star al sassofono, il maestro Daniele al piano e alla voce e la nostra Julie come front girl, front woman, front Madonna, che grande, sì. Che bello. E aggiungo, è stato proprio bello suonare, veramente. Attenzione, sul finale del sottofondo ascoltiamo la commozione. Il brano Cornflake Girl dei Babilonesi. E si è rotto tutto un'altra volta, incredibile. C'è un bel suono sotto. Io sento. Allora, non so come possiamo risolvere questa situazione. Molto bene, sono sempre quelle cose che amiamo. Qualcuno se vuole le faccio la colonna sonora io. Sì. Ah, grazie. Carina. Molto piacevole. Falla sul microfono così magari la sentono anche a casa. Aspettate, scusate, mi ero scordato. Abbiamo il consueto problema tecnico, però lo stacchetto era bello, eh? Complimenti. Complimenti vivissimi. Va bene, io annuncio quello che sarà quando i nostri prodi, chiunque avrà ripristinato il collegamento, e cioè che stavamo per diciamo mantenerci sempre sulla tematica saggio, ma andando a rompere appunto le uova nel paniere all'altra categoria, i bersagliati di sempre, i solisti, appunto coloro che si esibiscono ma in una formazione a parte, oppure col semplice maestro. In questo caso appunto avremo prima o poi, ve lo giuro, Manuela, che si è esibita accompagnata dal maestro Daniel. Finalmente non l'ho accompagnata io al piano, cioè mi avrebbe messo un'ansia per la difficoltà del pezzo, e chissà che non la riusciremo a sentire. No, io non voglio ci dare... proviamo. Vogliamo dire il titolo? Questo teniamolo alzato perché così voleva capisce, suonare la chitarra, va bene? No, io capisco che Silvano voleva suonare la chitarra e a me piaceva no, anche ma molto. Non è vero, cioè, ma non mi piace niente. No, mi è piaciuto che il fonico nel momento del problema ha mollato proprio tutto, messi i remi in barca, ha preso la chitarra, ha detto vabbè, sta puntata la svoltiamo così, dai. Ma io sono chitarrista. Tanto sono solo le 17:42, dobbiamo arrivare fino alle 7, no, io comincio a fare il peggio. E il piezo che voi a toccare si chiama Un dia de novembre. Io sono contento. Cosa sta succedendo? Non lo so, ha preso il sopravvento come spesso fa. Però cioè, noi gli vogliamo bene. Si chiama Radio Argentina. Diciamo che con la chitarra è stato meglio che senza. Posso dire questo senza paura di essere smentito? Vogliamo... con l'intervallo. Muchas gracias. Grazie al cielo. Iron Man creava meno problemi comunque. Quindi ne siamo venuti forse a capo e forse quindi stiamo per ascoltare Emanuela, della categoria dei solisti, quindi devo mettere la sigla. Scusate, sigla! Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, un'altra storia da vivere c'è. Molto bene, c'era appena stato un misunderstanding, stavamo per presentare un pezzo per un altro perché abbiamo questo problema di Manuela e Emanuela. Quindi Emanuela cantava Diamonds are a girl's best friend, non me lo fate pronunciare un'altra volta che è venuto già così. E... sentiamo. French are glad to die for love, they delight in fighting jewels, but I prefer jewels. Kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but won't pay the rental on your humble flat. Oh, help you at the automat. Men grow cold as girls. Square cut, open shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost, Gorham, talk me here with some, tell me all about it. Best friend, the make of the ed era Emanuela. Complimenti per la scelta del pezzo, coraggiosa, semplicissimo molto da cantare, semplicissimo da cantare e da suonare, però bisogna dire che ha pagato questa scelta. Si poteva sentire anche se ci facete, se ci, madonna, se ci fate ci caso, facciamo radio, si sentiva un che era appunto la macchina del fumo che sottolineava le entrate e le uscite della nostra Marilyn. Comunque ancora complimenti, brava Emanuela. E con questo che cosa vogliamo dire a proposito dei solisti? Allora, anzitutto che passiamo un attimino a, non più al saggio, la fase saggio è finita. Posso dire in proposito soltanto che ci saranno ovviamente nuove uscite, perché i pezzi che abbiamo fatto sono circa 33 e quindi poi insomma li pubblicheremo. No, volevo dire che è stata quella del saggio, così come quella del saggio della palestra, così come il 25, che c'è stato un bel concerto jazz, Storytellers, la prima volta che al Forte abbiamo acceso l'impianto dopo tanto tempo. E ho capito delle cose. C'era ansia, maestro? Se a parte c'era ansia, perché voglio dire. No, ho capito che insomma durante tutto questo periodo noi abbiamo fatto dei piccoli eventi, sempre spalmandoli sul palco grande per evitare tutti i problemi. Insomma, però ovviamente non ci abbiamo messo. Insomma, abbiamo fatto un fior di concerti anche rumorosi, ma sempre con due casse, due strizzate, ho tirato il collo, come si dice. E c'eravamo abituati, c'eravamo praticamente abituati, nel senso che quei giorni non si venivano a lamentare, perché già era grasso che colava, che se sentivamo quelli. E quindi, però, quando abbiamo attaccato l'impiantone, ecco, grazie per aver sottolineato. Comunque, quando? Non era voluto, però era voluto. Quando abbiamo attaccato l'alfa, quello che chiamiamo l'alfa, Nexo, abbiamo sentito finalmente come cazzo si sente un concerto. E quindi niente, volevo chiudere dicendo questo e dicendo che adesso invece ascoltiamo qualcosa di post prodotto, quindi figlio di quell'altro meccanismo lì, ma altrettanto valido, e soprattutto che è arrivato, cioè che ve lo dico a fa, alla vigilia del saggio, quando stavo montando, facendo luci, cose, arriva il maestro Stefano, che tutti conoscono come, cioè, comunque un pezzo di pane, veramente lo salutiamo. Ma poi ciao, è uno che non ti mette maestro in difficoltà di che solito. Che non ti mette in difficoltà mai, di solito. Infatti lui poi si è esibito, insomma, ha accompagnato tutti i suoi allievi, due, con col pianoforte, senza fare richieste particolari. Però il giorno prima del saggio mi dice: oh, avevo detto a Giulia, a Viola, se registravamo dei pezzi in sala, se si può fare, insomma, col suo candore. Io sono, cioè, lì per lì ho avuto un tuffo al cuore. Dopodiché, vabbè, l'abbiamo fatto. Sono arrivato però tardi, quindi abbiamo fatto una registrazione in un modo, una in un altro, grazie ai potenti mezzi di Viola che c'era al cellulare. E sì, adesso ascoltiamo Julie, che Viola sa che pezzo cantava. Sì, allora ce lo siamo scordati, lo sapevo, no, lo sapevo, ce lo siamo scordati. Era quello di cioè questa era la presentazione, no, di un pezzo. Perché? Perché era quello che era quello di Rihanna. Molto bene. Dei Stay. Perché vabbè, ricordiamo che Viola ha indovinato il titolo del pezzo degli assidui. Allora facciamo come un si chiamava il pezzo degli assidui? Cagnasso tutto. Cagnasso tutto. Prima, ma prima detto, si chiamava, scusate, che invece era, aria, era la seconda. No, non era neanche quello, neanche era allora giuro che il era sabato cagnasso del villaggio. Davanti all'avvocato lo dico, Cagnasso tutto si chiamava, ecco. Ciccio di nonna papera. Ok. Sì. Allora, noi ascoltiamo Julie, facciamo un appello a Julie perché ci contatti per dirci il titolo. Se era quello corretto, quello se era quello corretto, se avevo indovinato. Stay, forse. Stay. I'm crying, cause I love you. Never been in love before. What the fuck are fucking feelings? Yo, once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from a liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry, in my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was a loving pet. But baby, cause I love you. Yada yada yada yada yada. Got me standing in the rain, gotta get my hair pressed again. I would do it for you, oh my friend. Ready, baby, would you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Keep you out and low, I was ashamed. Now I'm crazy about a tattoo name. I thought that I didn't care. Well, I thought I was loving pain. But baby, oh baby, crying, 'cause I love you. I'm crying. Hey, I thought that I didn't care. Well, I thought I was loving bad, but baby. Celle Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Ed era la nostra Julie, sempre in diretta su Radio Forte, 100 Celle Avengers. E adesso che cosa stiamo per ascoltare, amici? Beh, l'abbiamo qui accanto, maestro. Volevo mettere in difficoltà e ci riesco sempre. E adesso un altro pezzo. Argomento a piacere, prodotto, un altro pezzo post prodotto, sempre con il maestro Stefano, e dove canto io. La canzone è una canzone di Samuele Bersani, Replay. Ah, questa te la ricordi? Questa me la ricordo benissimo. Con i potenti mezzi, quali il cellulare, appunto. Quindi fantastico. Non ce ne volete. Possiamo anche analizzare, appunto, le prestazioni di un. Sì, infatti. Non facciamo pubblicità, un cellulare comune nella registrazione audio. Tra miliardi di altri ci sei e non hai scia. Luminosa d'auto anche di periferia. Come i sogni che farei o prenderai a noleggio quando ti addormenterai. Con le scarpe sul letto, dentro a replay, con la testa girata un po' in su da fotografia, ci sei anche tu prima di andare via. Se rimango ancora qui è come se morissi e guardandomi allo specchio ad un tratto sparissi. Cadono le stelle e sono cieco e dove cadono non so. Cercherò, proverò davvero ad avere sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni tridimensionali, non chiedere mai niente al mondo, solo te, come una cosa che non c'è, cercando da dentro al replay. Per un attimo c'ero e anche lei, ma in quel momento qualcosa ho cancellato, si è fermato il tempo. La sua regolarità è come se morissi, è sparita anche la luna, è cominciata l'eclissi. Cadono le stelle, allora è vero, e io non so se ci sarò. Dove andrò non lo so, se lo merito o no. Se correggerò gli effetti dei miei guasti nucleari, se troverò il coraggio, ti telefono domani. E più sarò lontano e più sarò da te. Dimenticato e muto, come uno che non c'è. Tornerò, tornerò, davvero, a sentire su di me profumo delle mani. Di notte io farò sogni tridimensionali, senza chiedere mai niente al mondo, neanche a te. Senza chiedermi perché ti vedo dappertutto, anche in me. Ti vedo. Stai ascoltando Radio Forte e questo è 100 Celle Avengers. Avengers. Avengers. Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Forte, forte, forte, forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. 100 Celle Avengers, la musica si difende. E brava Viola, fallo un pezzo ogni tanto. Grazie. Oggi è il tuo terzo o quarto? Non lo so, perché non avevamo menzionato che nel pezzo degli Assiri c'era anche Viola alla chitarra, se non sì, sbaglio. Sì, però non era quel pezzo che non era quel pezzo lì. Okay. Avevo già chiesto conferma per niente, sì, cioè, sì, siamo sì. Una relazione comunque scompagnata. Poi, però proprio. Ve lo dirò quando. Ma quindi non ho capito, oggi non c'è Gabri, oggi chi sta a fare un taglio? Sono tutti fuori controllo qui. Non lo so, siamo un po' allo sbando. Tant'è vero che adesso sta per succedere una cosa terribile. Che cosa? non lo so. Cioè, sta per prendere il timone della. Anzitutto siamo al giro di boa. Cioè, ciao, una boa. Volta adesso ci saremmo salutati. E invece andiamo avanti. Sono le 18:01. E cosa succede? Che arriva, cioè prende il timone della trasmissione, dicevo, il più savio di noi, il più saggio. Ma voi mi state sempre a blastare sulle cose del Forte, ragione. Tutta sta roba, poi io la chitarra suono, ma era solo perché volevi suonare. Cioè, no, ti volevo bullizzare su quest'ultima cosa, che Silvano comunque arriva sempre tranquillo, tranzollo, come dicono i giovani, a Milano, in redazione il giorno della puntata, perché c'ha già in saccoccia i suoi buoni, non so quanti, minuti di intervista fatta post prodotta, arriva e mette in play, capito? Come se no, vabbè, scusate, Silvano appunto si sbatte durante la settimana, va a stalkerare i nostri maestri, ma lasciamolo dire a lui. Ma io mi diverto, non è vero che mi sbatto, sono loro che si sbattono, perché vengono sbattuti dal mio assillo, perché in realtà manco mi volevo parlare, povero Damiano. Gli vanno pure a casa per farsi intervistare. Esatto, pensa, gli ho offerto il pranzo. In realtà, cioè, sappiamo che ognuno dei nostri maestri ha una quantità di gruppi e sottogruppi notevole, quindi penso che tramite l'assillo di Silvano troveremo il modo, come 100 Celle Avengers, di dare sfogo, di dare luce, pubblicazione ai lavori dei nostri maestri, che sono quelli che poi veramente sanno suonare. Quando dico le e cose, che ti fanno venire le ansie sottofondo. Che se ne va mamma mia, il sottofondo, ma chi è che ha fatto sta cosa con le pause? Ah, io, ok, vabbè, ma perché l'ho se fatto? Se vuoi darmi la colpa non ti preoccupare. Mi ricordate perché l'ho fatto? Vabbè, mette in ansia sta cosa. Sì, perché si spana. Vabbè, comunque, dicevo, ma ho preso un'altra volta il timone io, invece deve andare a Silvanone, che adesso sì, ci dice. Io volevo solo dire che io vado da tutti i maestri, gli rompo le palle solo per sapere quello che stanno facendo, perché a noi piace scoprire quello che succede qui dentro e quello che fanno le persone che lavorano qui dentro. In questo caso sono andato dal mio insegnante di batteria, Damiano, che di recente ha registrato un progetto. Però non c'è bisogno che ne parli, perché tanto dice tutto l'intervista. Quindi, maestro, lei è pronto? Non vuole proprio fare niente, nemmeno presentarsi. Introdurre, ma perché mi devi presentare? La prossima sarà braccio, quella di... Esatto, la chitarra in mano. Che devi fare questa chitarra? Possiamo... non so dove girarla, non mi sono scordato la chitarra. L'intervista a Damiano. Sigla! Siamo tornati con Assilli e oggi assilliamo Damiano, il nostro insegnante di batteria della musica forte. Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito. Damiano, oltre ad essere insegnante di batteria della musica forte, oltre che essere il mio maestro di batteria, mi dispiace per lui, è anche un musicista. Ognuno ha i problemi suoi. In questo caso cosa stiamo ascoltando, Damiano? Stiamo ascoltando il disco di Simone Bova, mm-hmm. che è questo cantautore romano per il quale ho registrato sto disco l'estate scorsa, che è uscito adesso, da poco. Però io ho registrato, ho partecipato un po' agli arrangiamenti, poi le cose tecniche e burocratiche l'hanno gestite loro. Loro chi? Loro, allora, appunto Simone, intanto Bova, il fratello Daniele Bova, poi Riccardo Schiavello, il nostro amico che anche lui insegna chitarra al forte, che è il produttore Matteo Portelli del White Lodge Studio, che ha partecipato anche lui in veste di produttore, ci ha messo lo studio, ha suonato il basso, insomma. Quindi tu in questa cosa hai fatto una sorta di, diciamo, turnista. Esatto. Io e Marco Pasquariello. Volevo parlare innanzitutto di questo progetto, appunto, quindi di Bova, che prima si chiamava Bue. Aveva già fatto un disco, prima con un'altra etichetta, poi ha fatto un disco autoprodotto di 3 canzoni e adesso questo disco. Questo disco è autoprodotto? Beh, sì, si può dire sì. Nel senso che appunto la produzione l'hanno gestita Riccardo insieme a Matteo, insomma è stato fatto tutto fra amici, diciamo. E poi, che intendi, poi la produzione e l'uscita del disco l'hanno curata loro con l'etichetta con cui si sono accordati, che è Aurora Dischi. Certo. In particolare la cosa che mi è piaciuta molto di questo disco è il bel sodalizio che si è creato fra Riccardo e Simone, la classica coppia vincente. Quei risultati parlano, perché avendo seguito un po' l'evoluzione della cosa, da dove si partiva, i vari tentativi, le varie prove d'arrangiamento, devo dire che il lavoro che è stato fatto è bello, è notevole, mi è piaciuto molto. Certo, magari sono cose che si notano più da dentro, no? Piuttosto che sentendo direttamente il prodotto finale, che è figo, insomma. Però è figo ancora di più se uno ha sentito tutti i vari step intermedi. A proposito di step intermedi e di come si fa un disco, il batterista a che punto arriva della registrazione? E in particolare in questo caso, tu quando sei arrivato, c'era già una base, c'era già un'idea? O hanno lasciato libero? Beh, allora, intanto per un istante intellettuale dico che non sono di quei batteristi session man da studio con esperienza pluriennale. Ciò detto, penso che dipenda dalle situazioni, molto banalmente. Non c'è, penso, uno standard di quando arriva il batterista. Certo. Posso dire, in questo caso, appunto, la produzione l'ha curata più che altro Riccardo. E poi, vabbè, essendo amici, capitava che magari iniziava, mi mandava cose prima, oppure passavo io da lui quando stava producendo. Sentivo, partecipavo, dicevo la mia, qualunque cosa, ma anche non per forza sulla batteria, che è stata una cosa molto, appunto, familiare fra amici. Quindi diciamo che non è stato che tu sei arrivato lì, c'era la batteria, questi sono i pezzi, sentite lì, adesso registrami, no, i pezzi. Ovviamente così. Io sono arrivato che i pezzi li conoscevo. Ok. In studio di registrazione. Sì. In studio, una volta montata la batteria, fatti i suoni, poi abbiamo provato, insomma, ovvio che poi quando sei lì per lì quindi la variante in corso d'opera è una costante nella musica moderna. Certo. Deve essere così. Quindi è vero che puoi fare tutte le preproduzioni, tutte le cose, tutte le idee, quando arrivi in studio e registri, ti viene da dire, ok, figa sta cosa, ma ora che abbiamo tutti i microfoni sulla batteria messi bene tutto quanto, proviamo a fare anche quest'altra cosa. Certo. Sentiamo come esce. C'è mai stato un giorno in cui sei stati tutta la band a provare i pezzi? No, non abbiamo mai provato tutta la band. Esatto. Abbiamo fatto una prova di basso e batteria, tipo, prima di registrare insieme a Matteo lì allo studio, ma per il resto no, abbiamo fatto prima tutta la produzione. Che credo, ecco, questo credo che sia, ormai al giorno d'oggi, credo che sia abbastanza comune. Quindi qualora poi ci fossero delle date dal vivo, allora sì, dobbiamo finalmente fare prove, dobbiamo fare allestimento, sì, non è stato fatto. No, quindi vedete, la musica adesso funziona al contrario di come funzionava prima. Prima c'erano le persone che si incontravano, arrivavano a riuscire a creare un pezzo e poi dopo andavano in studio e lo registravano. E erano già pronti a farlo dal vivo perché... Per arrivare a fare questo ci avevano perso molto tempo. Sì. Adesso quindi è proprio cambiato l'approccio alla musica. Penso di sì, soprattutto nel pop credo che oggi sia così. Giustamente, anche perché la preparazione magari richiede altre cose. Non richiede che il batterista, il chitarrista e il bassista sappiano bene la parte loro e sia stato scelto quello, quanto magari tutto il discorso di suoni, certo, pad, elettronica, varia. Molto... la gioca su quello, quindi quello va fatto in fase di produzione. Assolutamente al computer, sì. Al computer. Quindi praticamente... la cosa figa è mischiare e poi amalgamare bene gli strumenti acustici sulle pre-produzioni, sui loop e sulle cose, quel discorso lì. La sfida oggi è quella. Quindi praticamente adesso si risparmia del tempo poi per andare a suonare dal vivo sui suoni. Perché tu i suoni ce l'hai fatti, e invece poi quando dovete andare a suonare dal vivo dovete fare le prove, quelle che invece non hai fatto prima. Esatto, è tutto al contrario. È divertente questa cosa di come funziona oggi la musica. È vero, parliamo sempre della musica pop e cantautorale soprattutto. E le persone che comunque, ripetiamo, sono professioniste. Allora, io adesso ho intervistato che tu sei venuto qua, hai registrato un disco, poi non hai registrato uno, non hai registrato qua. Ma tu come ti sei avvicinato alla musica? Cosa ti ha portato ad avvicinarti alla musica? Cosa poi in particolare alla batteria? Allora, se sei partito da lì poi, perché poi anche questo ti volevo chiedere. Allora, io vengo da un paesino in Umbria. Sarei voluto partire con la batteria verso i 9 anni. Però nei paesini ancora oggi insomma è un po' più, non è come a Roma, è più complicato, è un po' più difficile, vabbè. Per fartela breve, ho provato ad andare in banda musicale, era l'unica realtà che c'era, però lì non c'era un insegnante di batteria. Quindi diciamo mi hanno messo le bacchette in mano, ma in maniera diciamo un po' strana, solo sul rullante, a leggere i solfeggi, insomma una roba un pochino strana onestamente. E quindi ho lasciato perdere, ho pensato, ammazza, pensavo che suonare fosse divertente, invece fa schifo. Perché non avevo capito che in realtà lì non stavo suonando, ma stavo a fare non si sa che. Quindi ho voluto lasciar perdere. E ho iniziato poi a 12 anni, non con la batteria, ma suonando il tamburo imperiale. E io ho iniziato a fare quello prima, quindi ho fatto il tamburino per diversi anni. È stato il mio primo approccio con le percussioni. Poi invece a 16 anni... ho ricominciato con la batteria perché ho ritrovato un ambiente che mi piaceva, gente che suonava, poi ho trovato pure un insegnante bravissimo che stava orvieto, poco conosciuto purtroppo, ma è un batterista eccezionale, si chiama Roberto Forlini. E quindi ho iniziato a fare lezioni con lui, me l'ha fatta riprendere bene e subito un anno dopo che ho iniziato a suonare, anche se era ancora una pippa scandalosa, ho deciso no, ma che bello, vi fa questo punto sto. Quindi in realtà poi ho iniziato tardi. Quindi a 16 anni? Io pensavo che avessi iniziato prima. No, alla fine fra una cosa e l'altra a suonare, ho iniziato tardi, da solo e con l'insegnante. Certo. E in gruppo ancora dopo. Io in gruppo, a suonare in gruppo ho avuto nelle zone mie pochissime esperienze, un paio di gruppi così, ma roba tranquilla. Poi ho iniziato quando sono venuto a Roma a 19 anni a suonare, a fare il conservatorio, cioè il St. Louis. Quindi in realtà adesso è, da quando sto a Roma so, una decina d'anni. Okay. Com'è stato venire a Roma, entrare al St. Louis? È stato stimolante? Certo. Quanti incontri hai fatto? Tanti. Cambiare maestro, perché poi per forza avrei cambiato maestro venendo dall'Umbria e venendo a Roma. Come l'hai trovato tutto questo passaggio? No, ottimo, benissimo, mi sono trovato bene, tant'è che dopo 10 anni sto ancora qui, continuerò a stare qui, insomma, non mi è mai venuta voglia di andarmene via. Ho iniziato a suonare, a entrare veramente nell'ambiente musicale, a partecipare a produzioni su vari generi, quindi ho iniziato a insegnare, no? Come ben sai, e tutto, quindi va bene. Comunque, io per farvi capire, no? Allora, io l'ho conosciuto e lui mi ha detto, io ho un'estrazione jazz. Poi ho scoperto che suonava nel gruppo di un'amica mia che faceva, che definisci quel genere, come lo possiamo definire? Quello dei Godog, esatto. Ma è difficile definirlo, tendenzialmente non sapendo che dire diceva, diciamo sempre una cosa diversa. Però cioè, diciamo punk, possiamo dire punk demenziale, no, possiamo dire comunque è stato detto di tutto. Qualsiasi cosa. Comunque oggi ci arriva qua invece con una produzione pop. Domani che vuoi fare domani? A che cosa, che cosa vuoi suonare tu in realtà? Io so quello che mi dai da suonare, però non so quello che tu vuoi suonare. Non te l'ho mai chiesto. Non lo so, spesso non lo so neanche io. Non so. Non so ancora, non ho capito se purtroppo o per fortuna. Perché. Però non ho ancora un'identità tanto definita. Forse purtroppo perché è vero che invece. Poi in realtà. Un sacco di artisti che mi piace, un sacco di roba che mi piace, è gente che sa bene quello che vuole. E io evidentemente non lo so. Non lo so se è bene o male. Tendenzialmente ragiono, sento una cosa, mi piace o non mi piace, senza cercare di partire da tanti pregiudizi di genere o di. Ci sono alcune cose, tipo che ne so, il metal estremo, il brutal metal che non mi piacciono, non penso che mi piaceranno mai. Però per esempio da ragazzino a 13-14 anni mi ascoltavo il metal, perché no? Mi ascoltavo tipo il viking metal finlandese, l'epic metal, quella roba. Il metal è solo quello. Quindi insomma possiamo dire che tu sei ancora quel ragazzino di 19 anni che è aperto a tutto, sta lì e non vede l'ora di fare una cosa nuova. Un'altra domanda, infatti sarebbe d'obbligo su questo, è il suono. Ok. Quindi non allora, parliamo di tocco, parliamo proprio di suono, capito, proprio quello che cerchi, diciamo. Ecco no, su quello per esempio un po' più di identità l'ho trovata e ho capito cosa mi piace e cosa non mi piace. Quindi un po' sì, a parte senza entrare troppo nel tecnico, diciamo che sono rimasto, potrei dire, un po' antico come mentalità. Oh, vedi, c'è qualcosa. Mi piace la roba acustica, mi piace la legna che suona, il metallo dei piatti, no? Il bronzo dei piatti. Quindi per esempio ho smanetto poco con la roba elettronica, ho smanetto poco con i multipad, con le sequenze, con i trigger, ci smanetto poco, onestamente. Cioè magari su come accordare i rullanti o sul tipo di piatti, potendo farlo, lo faccio. Noi siamo giunti al termine dell'intervista. Ah dai! Siamo arrivati al momento più atteso di Assilli, quel momento del lancio del pezzo. Tu sei venuto qui a presentare un disco di Bova che si chiama Why, come uno dei singoli. Ma noi da Silly non ci piace lanciare i singoli dei dischi, perché veramente io ho sentito il disco e il mio pezzo preferito è assolutamente Polvere, il pezzo con più groove del disco. Sì, ci sono un po' sbizzarriti, con Riccardo ci sono un po' sbizzarriti. In effetti è anche uno dei pezzi in cui ci ho messo più del mio a livello proprio batteristico. Comunque anche le batterie le ha di base arrangiate Riccardo. Però qui mi sono preso un po' più di libertà e abbiamo sperimentato un po' di più direttamente in studio. Per esempio abbiamo sovrapposto due batterie, una registrata acustica ma che è resa tipo elettronica, per la batteria che si sente all'inizio soprattutto, prima che entro col ritornello, però prima ancora attufando le pelli, mettendo tutte magliette scotch sui tamburi alla ringostata. Esatto, lì abbiamo smanettato un pochino in studio direttamente, per trovare il suono definitivo. A questo punto io aspetto solo che lanci il pezzo. Vai, Polvere, Simone Bova. Alla prossima. Bella. Tendenze, il panico, l'addio alla televisione, la sera qualche volta bevi la tisana, sul pianerottolo del terzo piano, c'era una scena strana, la crudeltà, la disinformazione, altro che campagna, la trappa, il sonno della ragione dietro la lavagna, via del gasometro. Simulazione. farsi come fa un geco. Appena c'è l'occasione, il sangue tra le strade e le vene. La pioggia cade sul bagnato, poi si trasforma in neve. E tu, tra tutte queste cose, le prendi e poi le porti a casa. Siamo di nuovo su Radio Forte, 100 Celle Avengers. Abbiamo appena ascoltato, che abbiamo ascoltato, Silly? Assilli. Assilli, ma il pezzo era dei... Polvere di Bova. Molto, molto, molto, molto bene. Appropriato, ma adesso abbiamo il nostro momento letterario, il nostro caffè letterario che si autopresenta, perché c'è anche una sigla, ricordiamo. Allora, vado? Allora, buonasera, sono Viola, sono sempre io. Devi dire sempre sigla, ricordi. Ah, sigla, ok, sigla. Lasciatemi leggere. Questa poesia. E non so leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. Chiedo scusa, non si bullizzano, non si bullizzano i docenti. Scusa, professoressa, prego, il suo momento. No, si figuri. Allora, sì, la rubrica Music and Poetry. Oggi ho portato, diciamo, questa poesia di Eugenio Montale, Non nasconderti nell'ombra. E perché appunto adesso, ecco, è iniziata l'estate da un po' e siamo tutti felici e quindi dobbiamo uscire anche rispetto, diciamo, all'anno che è trascorso, al duro anno, e quindi uscire, osservare la vita e, diciamo, non buttare dei momenti, ma andare verso, diciamo, la ricerca della luce. E inizio con la mia poesia. Quindi una poesia di segno positivo. Sì, sì, quindi, sì, vabbè, certo, okay, per allora, tutti, una poesia per tutti. Perché... Sottofondo adeguato è questo. Ok. Bellissimo, ok, grazie. Allora, non nasconderti nell'ombra. Non rifugiarti nell'ombra di quel folto di verzura, come il falchetto che strapiomba fulmineo nella caldura. È ora di lasciare il canneto, stento, che pare s'addorma, e di guardare le forme della vita che si sgretola. Ci muoviamo in un pulviscolo madreperlaceo che vibra, in un barbaglio che invischia gli occhi e un poco ci sfibra. Pure lo senti nel gioco d'aride onde che impigra in quest'ora di disagio. Non buttiamo già in un gorgo senza fondo le nostre vite randagie, come quella chiostra di rupi che sembra sfilaccicarsi in ragnatele di nubi. Tali nostre anime arsi in cui l'illusione brucia, un fuoco pieno di cenere, si perdono nel sereno di una certezza, la luce. Ma come fa? Calmi, bambini. Hai visto? Ho trovato finalmente una poesia. Era un momento, cioè, allegro, ma non bimbi. Troppo. Cioè, sì. Comunque, grazie, professoressa Viola, come al solito. Grazie a voi per darmi questa possibilità. Sono serissima ora. Momento serietà. Oscilliamo veramente. Sì. Tra serietà e poi uno si inquieta. E zelo. E finisce qui quindi Music and Poetry, questa pillola di cultura bisettimanale. E vado a mettere una cosa così, qualsiasi, perché comunque oggi tutti si lodano e si sbrodano, e quindi anche io metto... Che metto, Silly? Ma guarda, allora, l'altra sera mentre tornavamo in macchina tu mi hai parlato di una storia molto bella, no? Che tu... Io già ti ho intervistato per un gruppo di cui tu eri capostipite, e tu mi hai parlato che in realtà però ce n'è avuto pure un altro di gruppo, e mi parlavi di quest'altro gruppo di possibile pezzi che avevi le registrato cose. Perché io perdo le cose secondo e te? E perché io racconto aneddoti che non hanno senso se poi non ci sono le cose da mandare? Cioè è incredibile, qualcuno si è rubato le mie tracce. Era l'ultima della prima della riga, quella lì tutta rosa, però vabbè, non lo so. Se ci dici gli accordi la suoniamo. Esatto, no, è che diciamo che faccio quello che fa suonare. Niente, sono ciecato, sono invecchiato. Questi sono gli Happy Noise, ciò che resta di me. E non a caso abbiamo messo questo stacchetto. Questa voce mi ricorda qualcuno, non so. Era lei, era sì. Colei che era in video. Era colei che ci manca. Sempre su Radio Forte 100 Celle Avengers. Io sono l'indegno sostituto della Gabri, che stamattina, come no, ieri, scusate, come vi avevo già detto, è partita e mi ha lasciato solo col suo dolore. Yara! Yara! Quindi pulizziamo un po' i cigni di Balacà. Non è vero, abbiamo un surrogato in cui io sono l'Alessio Orzinger, per chissà chi è Alessio Orzinger della situazione. Lei è la Tiziana Panella, per chissà chi è Tiziana Panella della situazione. E questa è la sigla dei cigni di Balacà. Ma papà, ma non lo senti che è uguale ai cigni di Balacà? Molto bene, come dicevo, indegno sostituto della Gabri. Ricordo a tutti che Cigni di Balacà è la rubrica di Centocelle Avengers che si occupa dei casi di plagio, ma lo fa con una certa serietà, tant'è vero che la nostra voce è quella della Gabri, la voce dell'informazione di Radio Forte, del radiogiornale, lo voglio ripetere ogni volta, e soprattutto che è quella che si occupa dei veri casi, quelli che approdano alle aule. Noi siamo un po' il popolo dei musicisti, il popolo degli ascoltatori, il popolo del popolo, e quindi... Ma sì, accordi sono sette, ma che sì, devi siamo fare? Il popolo, esatto. No, io per dare la voce al popolo che la puntata scorsa non ha potuto essere, diciamo, comprovata, volevo ricordare il caso che c'era stato sottoposto, se non sbaglio, dalla professoressa Viola, non sì, vorrei dire... è vero, sì, sì. Perché sì, sì. Cioè, l'ho riproposto, perché non è bastato dirlo, cioè, sono andato a sentire e cioè, manca tonalità, hanno cambiato. Allora, si parla di... No, sì, e a un certo punto, cioè voglio dire, uno dice almeno cambia la sua tonalità. Cioè io non lo so come la pensa la Gabri che appunto ci segue da lontano, ma questo mi sembra veramente un centro poi la perfetto. Cosa che, scusa, se, ma la cosa che io dissi a Gabri, Gabri, è mai possibile che nessuno mai ne ha parlato di questa cosa? Perché... Che cioè, Madonna ha rubato a Sailor Moon. No, il contrario. Ma la metrica, Daniele, la metrica, l'hai sentita? No, vabbè. Cioè, questa cosa, è... cioè, avevo tipo, io avevo, non lo so, quanti anni avevo, boh? No, 12 anni. Legalmente 12 anni. Non si raggiunge il numero di note che il maestro Morricone, insomma, tutti contano per denunciare il plagio ufficiale, ma mi pare comunque, no? Vabbè, insomma, cioè, poi se approderà in aula non lo sappiamo perché Cristina D'Avena è ben difesa. Quindi, cioè, dalla lobby. Ci troviamo, capito, con Taormina, cioè, non ci possiamo fare niente, povera Madonna. Vabbè. Comunque, a parte questo caso che io poi appunto invito la Gabriele a riproporre, c'è quello sulla bocca di tutti che io accenno soltanto perché comunque stanno per finire gli europei, quindi la prossima puntata gli europei saranno finiti, ma... Si parla di plagio sulla sigla degli europei di... Ah, perché 2020. C'è una sigla? Sì, vabbè, cioè, questa non ce l'abbiamo da riproporvi, ma vi invitiamo ad ascoltarli perché non si parla d'altro, dei pinguini tattici nucleari, che io appunto non ascoltavo e quindi non me ne ero accorto. Me l'hanno detto e io mi fido, anche perché chi me l'ha detto è una fonte assolutamente... attendibile. Invece io mi limito a parlare di quello che ho detto l'altra volta, queste pecionate che faccio io sullo stile, cioè sul copiare lo stile. L'altra volta parlai, ho parlato una volta, i Muse e i Queen, cioè questa cosa comunque comprovata, insomma, come la stima fra i personaggi, Brian May, Matthew Bellamy, che quindi si scopiazzano e si ripropongono proprio in maniera plateale, proprio elogiandosi a vicenda. Quello era il modo, come dicevo, di dire grazie e quindi di non plagiare, ma di... Diversamente io ho vissuto questa... Ho pensato al suono del suono, questa canzone. Ma non perché io pensi che... Cioè, perché comunque Sting si è anche trasferito nel Chianti, quindi può essere pure che Max ci è andato a dire... Cioè, grazie, ma io poi ho fatto questa operazione brutta da fonico, l'ho accelerata un pochino, l'ho alzata, e poi ho messo questa. Incredibile. Insomma, questo... fatto, poi anche dipende dal fatto che cioè, appunto Max Gazzè così come Sting sono bassista cantante, quindi che si ispirasse, dopodiché non so se vento d'estate, non so se se sia da considerare un vero grazie. Comunque sicuramente non approderà alle aule questa. Posso mia peciolata. Posso dire una cosa al maestro? Ecco, al limite sì, commentare. Allora questa, guardi, siccome qui. No, no, no, quale cazzata? No, no, no, Masgazzè non l'aveva messa, non l'ha mai fatta diventare famosa, non l'aveva mai incisa questa canzone perché sapeva di questa somiglianza. Sapeva di avere un debito. Ma l'amico Niccolò Fabbi, che all'epoca era scapestrato e aveva bisogno di un pezzo, andò lì e gli disse: senti un po', ma riesci un po' qua la cosa, oh, che ma era la famo uguale. Esatto, tanto è talmente più lenta che ma chi se ne accorge. A loro difesa posso dire che un bassista quando deve cantare si rifà molto spesso alla linea vocale di un altro bassista cantante, perché cantare e suonare il basso è molto complicato. È molto difficile, infatti molto. Io volevo che si esprimesse Virgi su, molto. Su questo fatto, quindi sì, in realtà cioè, penso che... Che Max e Daci sia andato nel Chianti. Tra l'altro cioè Sting lo fa pure il vino, cioè, quindi gli avrà comprato una cassetta. E Max beve. E Max è evidente che beve. Quindi sì. Si saranno rappacificati. A questo punto io con difficoltà, e parlando di difficoltà, metto un pezzo che si chiama Difficult Situation. Di cosa tratta questo pezzo? Ecco, Silvano sa, diciamo, un po' in retroscena. Io ci ho provato prima a dirlo, ma mi hanno cazziato. No, perché sembrava una cosa... invece, in fondo, mi fa piacere. Tanto poi i protagonisti non ci stanno sentendo, no. Per quello. No, non ci stanno sentendo, non lo so. Comunque, sta di fatto che io, insomma, avevo questo side project, oltre agli Happy Noise, e provavamo tutti in sala prove, al Forte Prenestino. Il side project, che si chiamavano i Fight for Your Relax, nati da un famoso slogan antiproibizionista del Forte, e appunto avevano un po' di, erano un po' facilitati, ecco, gli Happy Noise nascono al nuovo salario nella Roma Nord, mentre i Fight for Your Relax stavano tutti dentro al Forte fissi. Quindi insomma c'è stato un po' di conflitto di interessi, conflitto di tutto, difficult situation for me. E questa è Silvia che canta, questo finisco, lo hanno registrato su a Milano quando io facevo il corso da fonico e loro sono venuti a prestarsi come musicisti, quindi io non ci sono qui dentro, però ci sono appunto degli extra, dei featuring così per l'occasione, perché era il mio esame da fonico. Difficult situation on Radio 40. Thank you. quattro ragazzi su Radio Forte e queste 100 c'è la E siamo di nuovo in diretta su 100 Celle Avengers Radio Forte. Volevamo stupirvi con effetti. È stato un fail, ma ricordiamoci sempre che la felicità fatta di emozioni in punta di piedi. Questa è esattamente quello. Ne voglio un'altra, maestro. Versus maestra. Sederti a leggere all'ombra di un albero rilassa e libera i pensieri. Fabio versus maestra. Sono momenti in cui io ho bisogno di essere un attimo riindirizzato nella puntata e quindi ho bisogno di... L'amore è fatto di sensazioni delicate. Questa era quella sbagliata. Dello stomaco. E sull'amore si collega di nuovo la nostra professoressa, avvocato Gabri, che non so se ci sente, ma noi la vediamo. Sì. Bene amici, cosa sta per succedere? Ce lo siamo detto prima, ma io... Ma in realtà non... C'è stato il fail. Quindi noi volevamo dedicare proprio alla Gabri qualcosa di musicale. Io non so se siamo in grado. Sento un basso, quindi può essere pure di sì. Quindi non lo so veramente. È un po' fake questa roba. Ma piccato perché non sento la voce. Si sente. Però la tua la sento, quindi. Tu esci a destra? Sì. Facciamo così. Volevamo omaggiare sia la Gabri che ci vede, no, si è scollegata, ma soprattutto la persona che, come ho detto, ha reso possibile molte cose, tra cui il saggio, tra cui la diretta, tra cui il collegamento più lungo del mondo, che si chiama Jorge. E non si sente, e non si sente il piano, togliamo il sottofondo. Adesso puoi rialzare perché sennò non si sente il piano. Capito come funziona? Che se abbassi uno, no? Capito? Ora comprendo. Però, ante mi ha dice un'altra cosa. Lo sei, sei sempre la colpa mia. No, non è la tua, non è hablato contigo, è hablato con un altro tio. Molto bene. 1, 2, 3, 4 En la fortaleza prenestina siempre está trabajando. Tú no sabes si habla contigo o si está conectado, porque aprendió cómo mentirte mirando a los ojos, porque le gusta la mentira. Jorge mentiroso, se olvidó de contarnos muchas cosas sobre su vida. Jorge mentiroso, le hizo mal olvidar la verdad. Se rompió el mezclador de sonido. ¿Dónde está mi soporte técnico? En Aban escondido. ¿Por qué me mentiste, Jorge? Pensaste que todo iba a ser perfecto. Me emborrachaste con tus mentiras. Jorge mentiroso. Se olvidó de contarnos muchas cosas sobre su vida sabrosa. Jorge el mentiroso, muy sabroso, le hizo mal olvidar la verdad. Jorge. E come primo omaggio musicale io mi fermerei qui. Complimenti a tutta la band. Bellissimo, un applauso ve lo faccio io. Grazie a Giorgino per avermi assecondato in questa cosa. Ho ciccato tutto l'inizio, maestro. Io pensavo di ripetere quella parte. Lo so, invece no. Non sentivo la chitarra, ma questo perché non c'è un fonico. Ah, siete il fonico. Un problema. Questa cosa del musicale. Ma io fonico, uno solo. Guarda, te lo dico, viene male. Però sono io che insegno che fonico e musicista è fattibile. È assolutamente nelle cose. E poi non fai le cappelle, no, assolutamente. Però devo dire che poi quando, insomma, quando riesco a essere soddisfatto, ma posso levarmi sto riverbero? Ma guarda, è lei che l'ha messo, ah, lo so perché, colpa mia, scusa, lo voleva, scusa, sulla, scusa, canzone. Smettetela. Vabbè, dicevo, quando riesco a essere soddisfatto come musicista barra maestro barra fonico, faccio il triplete come... Vabbè, mi ha mutato il musical perché pensava che vai a toccare la chitarra. Sì, te l'ho mutato per quello, assolutamente, e perché direi che possiamo anche andare avanti. Che Virgi, oggi sei il timoniere nascosto, cioè non, cosa non c'era adesso? Il timoniere ha bisogno di un racconto e di una nuova rubrica uscita fresca fresca, Rise and Fall. Parlavamo di Rise and Fall, ok. Abbiamo la sigla, maestro, l'ha fatta? No, The Rise and Fall, l'ho fatta la sigla. No, raga, scusate, cioè io sono veramente un amante delle sigle, cioè quindi soffro quando non c'è la sigla. Però in effetti non c'è la sigla. Continua questo, diciamo... excursus di casi di divorzi, anzi di reunion e di divorzi musicali, ovviamente intesi, che si chiama Rise and Fall, che avrà la sigla fatta da Silvano, così così di quelle, ok. Oggi parliamo di un caso capitatomi, che poi diciamo fa un po' il crossover fra la questione di cui sopra e la questione traumi fonici, però io se poi faccio il crossover mi confondo. Allora, fondamentalmente parliamo del grande divorzio fra Vianello e Vilma Goic, che non è che lo vogliamo trattare dal punto di vista reale, ma come sappiamo è stato anche un divorzio artistico. E che soprattutto ha portato a una grande reunion artistica di cui io ho avuto un assaggio quell'anno in cui fui fonico a Villada. Ma che loro, cioè io non sapevo neanche che esistessero, cioè insomma, che fossero in attività, scopro tutto quella sera. C'hanno la reunion, c'hanno la cosa, e quindi io continuo a cercare la traccia loro, ma vabbè, questo è roba che dovrei far fare, cioè, a qualcuno che ci vede. Ho la sensazione di aver sbagliato la scaletta, maestro. Comunque, vabbè, quelli sono, cioè, fondamentalmente i Vianella sono quelli di guarda come dandolo, guarda come dandolo, esattamente. Perché ne parliamo? Perché in quell'occasione poi si sviluppò anche uno di quei traumi fonici di cui appunto una specie di sigla esiste, e quindi qui nasce il crossover. Quindi, però la sigla io non la trovo, come al solito. No, è un momento bellissimo quello in cui il maestro cerca le cose. Numero 4. Io in realtà non so se effettivamente vuole parlare di questo argomento. Sta prendendo tempo per parlare d'altro nel frattempo. Sei fregato. Aia. Che cazzo state dicendo? Andiamo. Sono il vostro fonico. Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. Aia. Fa sempre male quando lo sento. Vabbè, questa sarebbe la sigletta di Traumi Fonici, che fa il crossover un po' alla rubrica Rise and Fall in questo caso, perché poi la questione della reunion dei Vianella è fin troppo chiara per tutti, perché cioè, hanno fatto uno show appunto costituito dalle loro hit di 60 anni, 45 anni fa, che ancora oggi tutti ballavano. Vabbè, e quello che successe al povero fonico fu di avere un problema sul trasporto che portava ai loro in-ear monitor. L'in-ear monitor, che cos'è? La cuffietta, insomma, l'ascolto personalizzato che hanno le grandi star sui grandi palchi. E quindi in poche parole io avevo a disposizione un solo mix, una sola mandata, per chi conosce il termine. Insomma, il dramma significa gestire due persone che hanno divorziato anche nella vita, cioè, anche artisticamente e non artisticamente, con lo stesso mix. Quindi tutto il pezzo era guarda come dondolo, mi abbassi lui, guarda come dondolo, mi abbassi lei, e io dovevo fare in modo di fare queste operazioni quando lui o lei non guardavano, perché se avessero capito che io stavo gestendo tutto con lo stessa pappa, sarei stato fottuto. Però appunto ho fatto questa bella serata dondolante, appunto io a non farmi vedere dalla cara Vilma e dal vecchio Edoardo mentre gli cambiavo l'ascolto. Fondamentalmente hai fatto continuando ad alzarli e abbassarli. Vabbè, questo è un dramma che solo forse i fonici possono capire, così come quello di cui parlerò in futuro, e cioè di ciò che sta per succedermi nella vita. No, dimmi se vado bene in scaletta, Virgi, o sto saltando qualcosa. Ma mi sa che ho sbagliato io, quindi non si preoccupi. Dici che c'è stava il trailer. Io metterei il trailer così rifiatiamo. Esatto. Siamo, sì, lei dovrebbe. Abbiamo bisogno di parlare. Perché di questo trailer? Ma... no, appunto, anche per darti occasione di farti, insomma, di farti ringraziare per il lavoro che stai facendo, perché la Virgi sta curando un po' il meglio di The Best of the Greatest Hits of Chantecel Avengers, tutto il meglio delle 15-20 puntate che sono trascorse, intercorse. E per quel lasso di tempo brevissimo in cui probabilmente non andremo in diretta, e quindi io adesso so che questo è qui, lo trovo senza problemi e lo faccio sentire a tutti. Centocelle Avengers presenta. Ma smetti! Scusa, non ho fatto apposta. Centocelle Avengers presenta. Centocelle Avengers Story. I nostri eroi hanno proprio bisogno di una bella vacanza, ma non possono abbandonare la scuola di musica. C'è un pericolo dietro ogni angolo. È per questo che hanno preparato per voi Centocelle Avengers Story. Centocelle Avengers Story è un format creato appositamente per non farvi mai sentire soli. Il giovedì alle 20, il sabato alle 17, la domenica alle 10 abbiamo preparato per voi la raccolta delle migliori perle della vostra trasmissione radiofonica preferita. Mentre noi prendiamo il sole, godetevi l'estate con Centocelle Avengers Story! Grazie. Chi era quindi la base sotto? La base sotto era un artista che in questo momento mi sta prendendo il cuore ed è San Giovanni. Mi piace tantissimo. Io inorridisco. Mi piace tantissimo. Ma è ricco, ti compro tutta Malibu. Infatti, tra l'altro. Per un anno che ero riuscito a non parlare di Amici di Maria, cioè mi fai questo scherzo. Mi dispiace, è uscito uno buono. Tra l'altro, la Virgi voleva mandarlo a sorpresa. Quando l'ho preascoltato prima, mi ha guardato come a dire: no, cazzo, no, volevo fare il sorpresone. E comunque non l'avrei riconosciuto, perché proprio non l'ho guardata. Sì, me l'ha chiesto. Questa poi... edizione bellissima. Ma lei l'ha mosso il pedino su Malibu? Sì, allora è successo esattamente questo, che mentre ascoltava ha iniziato a muovere il piedino, a dondolare un po' sulla sedia, dopodiché mi ha chiesto: ma chi è questo qua? Ho detto: è San Giovanni. San Giovanni! Ecco, questa è la storia. Si chiama Blind Test. Ok. Grazie per avermi sottoposto a questo Blind Test. Ci sei sottoposto comunque, da te. Cioè io quando poi... vabbè, lasciamo stare. Io ci casco spesso con le cose che apparentemente non mi piacciono. Però non ti lasciar prendere, perché in questo momento invece volevo parlare di un genere di musica che si pone già con la puzza sotto al naso, quindi la musica classica. No, peggio. Il jazz. Perché fare pubblicità a questo festival che tra l'altro si svolgerà tra poco e che non ha bisogno, cioè credo che abbia tutti i biglietti venduti i possibili? Perché ci vado io. L'autoreferenzialità ormai di questa trasmissione raggiunge l'apice. Beh. E quindi io, all'interno sempre di traumi fonici, vi parlo di quello che mi succederà tra poco, che forse ci interesserà, se riuscirò a collegarmi anche da lì, ma non credo. E che riguarda fondamentalmente la prima edizione o la seconda in cui andai lì a lavorare, in cui imparai diverse cose. La giornata di cui parlo è una giornata brasileira, fondamentalmente c'erano Carlinhos Brown e Los Tribalistas, e insomma un sacco di pedane, di batteria per chi poi come me doveva andare a occupare, me e Tommy, che saluto, che dobbiamo andarli a cablare. Si tratta di appunto quantità di microfoni sulle pedane, e nel caso dei Brasileiros ovviamente si parla di 3 pedane di percussioni. Che cosa ho imparato quell'anno? Anzitutto che i nomi sono importanti e che fai parecchie figure di merda, anche e soprattutto quando magari presumibilmente provieni anche dal Sud America o i tuoi genitori, e quindi cioè dovresti saperle certe cose, ma ci sono dei nomi di percussioni curiosi, e le differenze fra questi, tipo pandeiro e pandeiron, sono a volte... cioè il pandeiro è un piccolo tamburello, il pandeiron è una pelle di bue gigante. Beiron, è chiaro, quindi, no? Per te che vai lì così discreto dal percussionista, devo cablare, non è come la batteria, ecco, quello volevo dire. E quello che ho imparato poi invece è a non stare, cioè a gestire i momenti. C'è un momento per tutto, come dice la Bibbia, credo. E quindi c'è il momento in cui il percussionista si acchitta e il momento in cui tu vai a mettere i microfoni. Se questi due momenti si accavallano, può succedere quello che successe a me. Io mi avvicinai a questo Timbales, credo che fosse il canale numero 16, volevo che i cavi fossero stesi a modino, volevo fare l'autostradina di cavi tutta fatta bene, insomma mi misi con l'orecchio sinistro accanto al Timbales e il brasileiro di turno tirò ad un clan clan clan clan clan clan che ancora diciamo riecheggia nei miei sogni e che in quel momento mi fece prendere la decisione di fare un attimo di pausa. E mi causò probabilmente un vero e proprio trauma fonico di quelli, diciamo, fisicamente, non emotivamente, ma fisicamente riscontrabili. Niente, finita questa piccola parentesi, vado appunto a dirvi che innanzitutto, così mettiamo Carlinhos Brown, che appunto che è quello che mi ha stuccato l'orecchio. Sì, no, è quello che mi ha causato questo è un pezzo famoso, ma comunque. Dicevo, ci collegheremo probabilmente dal sottopalco dell'Umbria Jazz, ma nel frattempo io, sì, salutando quella che è la mia, diciamo, la squadra che si ritrova ogni anno lì a Perugia, quindi Tommy, Willy and Claudio, vado a leggere la channel list che tutti vorrebbero sentirsi leggere. 17 piano low, 18 piano high, 19 piano pickup low, 20 piano pickup high, 21 vocal piano. Questo è Bollani che dovrebbe essere il 10. Mi raccomando, non mancate, questa è una serata in cui mi potreste trovare rilassato e diciamo voglioso di parlare con voi. Il 17 invece abbiamo un cambio palco fra Rubalcaba che ha kick snare, hat tom, floor tom, overhead, timbales, cowbell, contra cowbell, double bass, conga left centro, conga centro, conga right centro, conga right, overhead left, overhead centro, overhead right, e questa è solo metà della channel list. Poi c'è il bongo, sax key, sax A, sax B, piano low, piano C, piano R, piano keyboard L, keyboard R, backing vocals, perché sono anche backing vocals, left e right. Tutto questo deve essere cambiato in 5 secondi, no, in circa 20 minuti, in kick out, kick in, vabbè, non ve la leggo tutta. Ci sono 48 canali che comunque, voglio dire, a nessuno frega niente, se non fosse che abbiamo vissuto appena adesso un saggio, abbiamo capito che anche noi, nel nostro piccolo, come scuola di musica, possiamo essere un fastidio. Cioè, diciamo, siamo una bella situazione di canali che cambiano fra di loro, gruppi che non si sa che pezzo faranno, e quindi niente, la solita solidarietà soprattutto ai tecnici che ci stanno appresso e soprattutto ai miei amigos che ritroverò per fare appunto per comporre queste due channel list e varie altre tra il 9 e il 18 a Perugia, dove comunque appunto non ci stanno i palchi gratuiti, quindi è pure brutto che lo dico, ci stanno solo i palchi a pagamento per il solito problema che tutti conoscono. E tuttavia sarà grande musica e niente, io mo le cazzate in merito le ho anche esaurite, ci avrei un Silvano Dannata, lo posso mettere? Va bene. O dite che facciamo. Io te volevo far cantare veramente. Addirittura. Sì, però non lo so. Dici? Potremmo. Dai. Però dovrei trovare un attimino le coordinate spazio-temporali che non c'ho mai. Non si preoccupi, non c'è problema, abbiamo tutto il tempo. Tanto al massimo la sfumiamo, giusto? Assolutamente. Ok. Ma tu dici che la chitarra quindi si sentirà? Però un po'? È probabile. Ah, tocca aprire music, no? Mi sembra che si sente. E quindi chiosa musicale? Ma sì, io direi di sì, maestro. Lei che ne pensa? Io sono con te tutta la vita. Vado. Vai. I can't get to sleep. I think about the implication of diving in too deep and possibly the complication, especially at night. I worry of a situation I know will be alright. Perhaps it's just imagination. Day after day reappears, night after night my heartbeat shows the fear. Ghosts appear and fade away. Come back another day. I can't get to sleep. I think about the implications of digging too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry of a situation that I know will be alright. It's just over care. Day after day reappears, night after night I always show the fear. Ghosts appear and fade away. Ghosts appear and fade away. E niente, abbiamo voluto fare la chiusura romantica. Io mi leverei il riverbero. Bravi. Ringrazierei Silvano, fonico e musicista. Quanto siete belli, ragazzi. È sempre ragazzi. Bello quando lo fa lei il fonico maestro. Ti ringrazio per... Anche Gabri. Anche Gabri sta facendo i suoi... Salutiamo la Gabri che ci saluta, che vi applaude dallo schermo. E ciao, ricordiamo Gabri. Ricordiamo che questa puntata, come le altre, la trovate in podcast sul sito del Forte, fortepenestino.net, nella sezione Radio 40. E vabbè, che abbiamo un canale Telegram che si chiama 100 Celle Avengers, anzi Radio Forte 100 Celle Avengers, che abbiamo una stanza Jizzy che si chiama Music Forte Factory, dove la gente può seguirsi in modalità Jizzy. Guardateci. E che niente, noi proveremo forse a fare qualcosa di indiretto nel prossimo appuntamento, che dovrebbe essere il 17, non vi dico manco appunto, mi sa che è il giorno di Rubalcaba, no? Io starò qui e tu sarai lì, come faremo così? Non era il giorno di Rubalcaba, lunedì? Sì, è il 17, quindi niente, non la faremo mai questa diretta. Però è partita la sigla. Che dolore, mi ha presa male. Cioè, complimenti a me. Così, a Dicevo, il 17 probabilmente cominceranno le simpatiche repliche di Virgi, se così non sarà lo saprete presto. Comunque io volevo ricordarvi intanto che... aspetta, non c'è più? No, non ve lo ricordo perché tanto è finito. Prematuro. A un certo punto sento sulla pista d'atterraggio, mi saluta un uomo e mio papà. Sto partendo per lo spazio, riuscirò a capire meglio il senso quando non sarò più qua. Io sono un missile, ho sfiorato più di 1000 volte l'atmosfera.